Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Oggi gradirei dare un papà, una mamma, gli zii, i nipoti e tutto il resto al famoso Porcellum. Devo dire che io ho messo a disposizione la penna, ma scrivere la quale legge sia stati in tanti, da una parte e dall'altra dell'emiciclo. Venne l'iniziativa da un ricatto, non facciamo i nomi e i cognomi, ma la richiesta fu di Marco Follini e dell'UDC, che disse che non avrebbe mai votato il quarto passaggio della riforma costituzionale del 2005. Noi non la votiamo se voi non modificate in senso proporzionale la legge. Fini volle la cosiddetta lista bloccata. Chi volle il premio di maggioranza senza limite fu il presidente Berlusconi. Però il premio doveva essere uguale sia alla Camera che al Senato e che, piaccia o non piaccia, avrebbe garantito la governabilità. Chi tolse il premio a livello nazionale e lo tradusse a livello regionale, mettendo in condizioni questo Senato di non garantire una maggioranza? L'allora Presidente della Repubblica. Questa è la storia. Senatore Calderoli, buongiorno. Buongiorno, direttore. Questa era la sua voce, la riconosce? Sì, sono rimasto stupito che per una volta qualcuno abbia voluto fare verità. Ma perché è importante provarci, diciamo, almeno noi ci proviamo. Ecco, lei è la penna, abbiamo capito che non è il papà del Porcellum, ma è solo la penna del Porcellum. Ecco, oggi questo accordo Renzi-Berlusconi, secondo lei, finalmente eliminerà il Porcellum? No, guardi, non eliminerà niente, perché purtroppo quello che è uscito dalla Camera, quello che viene chiamato Italicum, ma che di fatto è il Porcellinum, ha preso le parti peggiori del Porcellum e le ha mantenute al posto di correggerle e hanno tolto le parti buone. Quindi ci troviamo di fronte a una situazione di assoluta impasse, perché noi abbiamo una sentenza della Corte, che piaccia o non piaccia, che rendeva la legge elettorale per l'elezione della Camera dei Deputati già operativa e quindi in condizione di poter essere utilizzata se si dovesse andare al voto, e invece un vuoto rispetto alla legge elettorale del Senato, perché introducendo o richiamando le preferenze la Corte Costituzionale, ma non essendovi mai vestate nella storia della Repubblica le preferenze sul Senato, non è direttamente applicativa. Ecco, però, un buon legislatore avrebbe corretto la parte non operativa, e invece qui abbiamo assistito al contrario, cioè hanno corretto quella della Camera dei Deputati e non hanno toccato quella del Senato. Beh, il Senato lo aboliscono. Se dovesse andare al voto non ci sarebbe una legge elettorale. Sì, però non, la previsione non è di andare al voto, no? La previsione è quella di fare la riforma elettorale, la riforma del titolo quinto, la riforma del Senato. Mi pare che questo sia il disegno abbastanza chiaro di Renzi. Poi ci riuscirà o non ci riuscirà, si vedrà. Ma intanto questo Porcellum, io voglio farle una domanda semplice. Che paese è un paese che si è dato una legge elettorale che viene considerata un Porcellum da chi l'ha fatta, anzi da chi l'ha scritta, diciamo? Lei... Vede, io su questo sono d'accordo con lei, ma vede, io questa definizione l'ho data prima che venisse utilizzata la prima volta, io lo dissi nel febbraio del 2006. Vabbè, ma di fatto è rimasta. E a maggio io ho presentato la proposta per la sua soppressione e la sua correzione. Io mi chiedo che paese è quello che ha un Parlamento che in 8 anni, con alternanza delle maggioranze, cioè prima centro-sinistra, centro-destra, eccetera, nessuno, dopo aver detto una cosa tremenda, bisogna modificarla, sia andato a modificarla. Il problema è che non l'abbiamo cambiata ancora oggi. Ecco, però diciamo che adesso l'intenzione politica e la proposta per modificarla, lei dice, è peggiorativa, può darsi, altri pensano che invece non è peggiorativa, ma è quello che ci vuole, almeno è una legge condivisa, perché è fatta insieme da maggioranza e opposizione, questo sicuramente è un valore. Ma una classe politica che fa di fatto votiamo da 8 anni con quella legge lì, non è il segno che non ha rapporto col paese? Cioè, se lei avesse seguito, come purtroppo è toccato fare a me, tutti i lavori della commissione, e per anni, e anche avendo alle spalle un forte sostegno da parte del Presidente della Repubblica Napolitano per poterla cambiare, ogni volta che si arrivava al momento giusto, una volta il veto lo poneva la sinistra, una volta il veto lo poneva il PDL, il risultato è questo, si è arrivata a questa situazione di stallo. Ma lei non pensi che la legge così come uscita dalla Camera verrà mai approvata? Perché è una cosa che non sta proprio insieme. Ecco, 800 24 00 24 è il numero verde, 349 238 6666 il nostro SMS. Però diciamo che intanto, e ieri è stato approvato dal... Lei dice, vabbè, questa legge secondo lei non verrà approvata, però certamente il fatto che sia concordata fra maggioranza e opposizione una sua forza gliela dà, obiettivamente. Ma sono tutti dei trucchi, perché tanto la premessa del mio intervento è che la legge fu figlia di un ricatto, mi serve per ricordare... Certo, noi l'abbiamo detto, no? Esattamente, per l'approvazione della riforma costituzionale, eravamo al quarto passaggio. Tutto quello che ci viene proposto oggi come una novità da Renzi, ovvero la riduzione del numero dei parlamentari, la fine del bicameralismo perfetto, un Senato che non dà più la fiducia, un governo che è in grado di governare, erano i contenuti della mia legge del 2005 che poi fu bocciata da un referendum. E allora, anche se è stato ripreso qualcosa di buono, certo non è che ha inventato tutto da zero, mi sembra che sia un passo avanti. Ci dice il nostro ascoltatore, meno centri decisionali e più potere al premier, in fondo ci assumeremo se vogliamo un rischio, però è un modo di rendere governabile il paese. Io sono assolutamente d'accordo, infatti quando si arriverà alla parte che riguarda la forma di governo, il Forza Italia, che oggi non si chiama più PDL, chiederà il semipresidenzialismo, dopodiché si romperà l'accordo con Renzi e, tra Renzi e Berlusconi, dopodiché avrà sicuramente... Lei dice si ricomincia da zero a quel esattamente, punto. Esattamente, perché è già tutto scritto. Mi sembra di rivedere la bicamerale D'Alema. Però diciamo che lei storicizza, però invece l'innovazione è possibile. Non è detto che vada per forza a finire così. L'ho fatta votare per 4 volte dalla Camera e dal Senato e io quella volta ho convinto i tacchini ad anticipare il Natale. Gli altri lo dicono, io l'ho fatto. Senta, comunque l'abolizione del Senato di cui ha parlato ieri Renzi con molta determinazione, sentiamo cosa ha detto Renzi. Noi stavolta come governo approviamo un disegno di legge costituzionale che intende superare il bicameralismo perfetto e che ha 4 paletti. No voto di fiducia, no voto sul bilancio, no elezione diretta dei senatori, no indennità per i senatori. È il Senato che riduce le proprie competenze su alcuni singoli settori e quindi è davvero una novità straordinaria. Sono certo che la maggioranza dei senatori non potrà cacciare questa speranza. Aggiungo che personalmente sono molto convinto che non ci sia alternativa al futuro. Io non so se ci sarà il lieto fine, ma questo è un buon inizio. Ecco, Renzi ha detto, concludendo il suo discorso, Italicum e abolizione del Senato valgono una carriera politica. Quindi, se penso a quello che lei sta dicendo, la carriera politica se la gioca sul serio. Ma no, siamo abituati agli ultimatum di Renzi. Se lei si ricorda sulla legge elettorale, deve essere approvata entro la fine dell'anno, deve essere approvata entro la fine di gennaio, poi il mese di febbraio, poi marzo, poi aprile, poi prima delle elezioni politiche e adesso è stato anteposto la riforma del Senato alla legge elettorale, quindi tutti gli ultimatum erano dei penultimatum da parte di Renzi. E infatti avrà notato anche lei, perché lei giustamente ha detto l'abolizione del Senato, ha già visto che la parola abolizione è scomparsa. E quello che si chiama però i quattro paletti l'assemblea dell'autonomia è tornata ad essere senato dell'autonomia. Vabbè, ma quello è un fatto nominalismo, la sostanza è che non è elettiva, diciamo, poi sostanzialmente, perché se vogliamo non fare una polemica esclusivamente così strumentale ma andare al merito della questione, il nominalismo, se la chiami Senato o non la chiami Senato, va bene uguale. Se non è elettiva, il punto è quello, però. No, quello che cambia la natura, poi alla fine è quella. È una forma di elezione di secondo livello, ovvero l'elezione avviene da parte dei consigli regionali e alcune figure come i governatori e i sindaci dei capoluoghi di regioni vi sono per diritto. Però se tu non voti il bilancio, sostanzialmente diciamo conti in un altro modo, non dico serie B ma anche serie C. Ma io non voglio che ci sia una Camera di serie A o di serie B o di serie C. Una è di serie A ed è la Camera. No, vedi, è sbagliato il concetto dell'A e il B, cioè deve esserci una specializzazione, perché l'assurdità è che due organi che costano facciano le stesse cose. Non costeranno queste, il Senato è stato detto. Non prendiamoci in giro rispetto al non costo. No, però proviamo anche a credere a qualcosa. Perché se no, se lei mi dice che io devo credere a un asino no, che io vola, non le dico. Non ci credo. No, ma lei fa benissimo, perché non ci credo neanch'io all'asino che vola. Un disegno di legge che doveva abolire le province, e le province continuano a esistere. Potrò essere più San Tommaso di prima, certo, e voler andare a toccare con mano. Mi viene detto anche addirittura il risparmio, quando poi, al posto che non abolire le province come noi avremmo voluto abolirle per Costituzione, si è presa la scusa per creare 31.000 posti politici in più, ovvero 26.000 consiglieri comunali e più di 5.000 assessori in più rispetto al passato. È una cosa che veramente, poi uno può fare tutte le dichiarazioni in conferenza stampa che vuole, ma i numeri sono numeri. Però se uno ci mette veramente la sua vita, la sua carriera politica, la sua faccia, a 38 anni, qualche credibilità bisogna dargliela, perché sennò è, come dire, è un a priori che diventa soltanto politico, propagandistico, ma non è nel merito. Prego. Poco più di due mesi fa, adesso la data precisa non la ricordo, la stessa persona aveva detto a Letta: tu vai avanti tranquillo fino al 2015, dopodiché si andrà al voto, realizzate le riforme, ma tu farai il Presidente del Consiglio, io sarò segretario di partito, e dopo 15 giorni lo pugnala, potrò avere il lei ha diritto ad avere tutti dubbio, lei rispetto. il dubbio è lecito, un po' di credito a uno che dice mi gioco la mia carriera, ma non si gioca niente, vabbè, lo vedremo questo. Senta, lei ha partecipato ai lavori in commissione, che giudizio dà del lavoro del ministro Boschi? Non abbiamo ancora vista. Questo giudizio, credo che avremo questo onore quest'oggi, però fino ad oggi noi del nuovo governo, tranne i sottosegretari, non abbiamo avuto ancora la possibilità di vederne ancora uno. Senta, c'è Mario Secchi che vuol fare una domanda. Prego. Buongiorno Calderoni. Buongiorno, sì. Allora, insomma, sostanzialmente la cosa è questa: Renzi ha circa 120 voti, gliene mancano 40. Parlo per far passare la riforma. Secondo lei li trova oppure è semplicemente una tattica? Ma guardi, se la riforma è una riforma vera e non una finta, la Lega la vota la riforma. Questo è un dato, è importante. Anche perché, scusi, senatore, io penso che bisogna davvero dare fiducia a chi vuole provare a cambiare, e poi va bene, vedremo. Senatore, ci sta dando una notizia. Ha dato una notizia vera. La Lega vota. La Lega vota, se è seria, però se vota. Se è seria. E noi concorreremo con tutte le nostre capacità, e credo che abbiamo una grossa esperienza alle spalle. Lei questa soprattutto. Io le dico che darò qualunque tipo di mio contributo per poter fare una riforma seria. E se è seria, io e il mio gruppo la voteremo. Se è come quella delle province, allora mi metto a sparare. D'accordo, va bene. Comunque, una vera apertura di credito. Pietrangelo Buttafuoco, anche lui ha una domanda. Buongiorno senatore. Buttafuoco. Buongiorno, vorrei uscire un attimo dall'aula sorda e grigia e parlare di politica. Ho una curiosità riguardo all'emblema, al simbolo della Lega. Sì. Allora, avete tolto la parola Padania e avete aggiunto uno slogan ben preciso: no euro. Basta euro. Basta euro. Che è ben diverso da no euro, giusto? Cioè, assolutamente. Cioè, basta euro non è un po' tanto? No, Noi stiamo interpretando quello che è il sentimento della stragrande maggioranza delle persone che hanno avuto l'esperienza dal 2001 ad oggi di euro, e le garantisco, perché stiamo facendo una raccolta dei referendum per l'abolizione della legge Merlin, Fornero. Vabbè, aboliamo tutto, ok. E per la settimana precedente le elezioni faremo anche un referendum, ovviamente consultivo, per far dire sì o no alla gente all'euro. Io sono sicuro che il 90% ma la maggioranza abolirà l'euro. Va bene, l'abolire l'euro vuol dire anche per molti far sparire a medio termine l'Italia dalla faccia della terra. È una posizione estrema come quella del no euro, oppure è una possibilità reale? Perché molti lo credono anche. Perché un conto è cambiare il modo di stare in Europa dell'Italia, e anche il modo di pensare, cambiando il modo di stare in Europa, la funzione e la modalità di organizzazione dell'euro. Un altro è dire no euro secco. Guardi, se la trasmissione o lei volesse seguire uno dei convegni che praticamente settimanalmente o bisettimanalmente professore non leghisti, perché uno di questi, senza fare nomi, si presenta dicendo: io sono del Partito Democratico, la stessa proposta l'ho fatta al Partito Democratico, sì, non credo più all'euro, e spiega come uscirne e come uscirne sopravvivendo. Un dato è certo, che i paesi dell'Unione Europea che stanno meglio sono quelli che hanno mantenuto la loro moneta sovrana, quindi se potrà partecipare a uno di questi incontri poi avrà, certo, la possibilità io di la ringrazio, però nel mondo globalizzato la resistenza dei singoli stati da soli penso che sia un problema molto molto serio. Mario? Ancora una domanda secca: qual è l'obiettivo minimo per le elezioni europee della Lega? Cioè, ma quanto volete prendere? Intorno al 6%. Il 6. C'è una risposta da parte del centro e del sud che mi fa pensare che questo risultato possa essere raggiungibile. Ancora buttafuoco? Ancora una domanda, senatore. L'alleanza strategica con Marine Le Pen crede che sarà di aiuto alla campagna elettorale della Lega in Italia? Ma vede, il nostro obiettivo non è quello di un'alleanza strategica. Cioè, l'obiettivo è di un'alleanza tra una serie di forze che contrastano questo modello di Europa e questo modello di euro, per costituire poi un gruppo a livello europeo che abbia le idee chiare su quello che dovrà essere l'Europa. 800 24 00 24 il numero verde, 349 238 6666. Calderoli, se non fossi della Lega, non avessi governato per 5 anni, la voterei, dice. Quindi sostanzialmente che cosa avete fatto? Guardi, certe volte viene quasi rabbia rispetto al fatto di aver, per esempio, eliminato quasi 100.000 poltrone per i tagli della politica, di cui però nessuno ha mai parlato, e il vedere settimana scorsa si vede che sono rimaste troppe, 31.000 poltrone. Capisce che allora forse con vabbè, numeri siamo alla mano in campagna elettorale. Senta, no, siamo in campagna elettorale. Questi sono numeri. Senatore, le voglio fare un'ultima domanda. Ecco, Renzi ieri ha anche detto una cosa che mi è sembrata davvero rivoluzionaria per un leader del PD. Ha detto che un avviso di garanzia non può essere una condanna. Questa è la legge, sarebbe la legge, ma detta da un segretario del PD è una cosa a cui bisogna dare un peso diverso, oppure no? Vuol dire che c'è una linea che cambia sulla giustizia? Ma guardi, mi sembra che il presidente Renzi abbia detto una cosa che ovvia, è sacrosanta, assolutamente, e che, fra l'altro, però non è stata praticata. Fra l'altro è un principio stabilito dalla Costituzione. Siamo d'accordo, no, senatore? Perché, ovvio, no, io lo stavo dicendo una cosa. Tre gradi di giudizio. No, ma senatore, io le ho fatto una domanda politica. No, le ho detto occuparsi in questo modo della giustizia e dire questo, purtroppo è capitato che gli avvisi di garanzia in molti casi siano stati delle pistole alla tempia di chi li ha subiti senza giudizio, no, obiettivamente. Quindi scusi, c'è Oscar da Milano. Oscar, posso? Una domanda? Certo. Sì, no, certo. No, più che domanda, un'affermazione. C'è una grossissima delusione per Calderoli, inutile che si chiacchiera tanto, 20 anni di governo sono stati la delusione più grossa. e quindi la speranza sono i Renzi. L'80% degli va italiani bene. Lo voterà. Lo voterà. Va bene, e questo lo vedremo. Calderoli, tot vede, capita, tot sentenze. Se fossi stato vent'anni al governo, veramente. Grazie, grazie senatore Calderoli. Pubblicità. Però, no, mi dica sì, scusi, a 8 secondi. Sì. Renzi è bene che dica queste cose qua, però è brutto che lo si ricordi quando gli avvisi di garanzia riguardano i propri esponenti nel proprio governo. Vabbè, comunque è un principio, è un passo avanti, non si può non vedere un passo avanti nella valutazione segretari del PD che abbiano detto questo. Può darsi che ci siano stati, io in questo momento non me lo ricordo. Tu Mario? Nessuno. Te ne ricordi, Pietrangelo? E che le manette si avvicinano e quindi uno lo avverte. Vabbè, ok. Mix 24. Io e te, chissà qualcuno ci avrà pure presentati e abbiamo usato un taxi più, un telefono più, una piazza. Io e te, scaraventati dall'amore in una stanza, mentre è tutto intorno è pioggia. Pietrangelo, tu a Calderoli, questa canzone? Questa canzone perché oggi sfogliando i giornali ho visto le fotografie che, secondo grande scuola, come dice Mario, no? Come cosa ci insegnavano? Ci insegnavano che gli articoli si guardano e le fotografie si leggono. Si leggono, sempre, certo. E c'è quella bellissima foto. I giornali si fanno. Dove c'è Manuel Valls, il nuovo premier di Francia, con la sua signora, con sua moglie, la violinista Anne. E quindi ho pensato che questa poteva essere la canzone perfetta. E tu hai guardato soprattutto lui, immagino, no? Si vedono per radio? Sta facendo le corna, non dico altro. Si vedono per radio? Beh, sì, guardavi lui, ho capito. Come vabbè, sempre. Vabbè. Allora... Guarda che foto! E allora la nostra quota rosa? Abbiamo visto le balene, grandi pesci colorati di ogni tipo. Allora ragazzi, il Giappone è profondamente deluso, eh? Io invece sono profondamente felice. Per cosa è capitato? È successa una cosa pazzesca. La Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA serve a qualcosa e infatti obbliga il Giappone a interrompere per sempre la caccia alle balene nell'Antartico. Il Giappone ovviamente giustifica questa mattanza delle balene con l'esigenza di preservare la loro tradizione, ma io, con tutto il rispetto per il Giappone, preferisco mantenere la tradizione dei giganti del mare vivi. Oh, la nostra quota rosa, com'è buona la Tardelli. E allora oggi cosa bolle in pentola? Io vado al comizio, parlo. Prometto, prometto, prometto. Prometta, prometta. E prometta fogne, strade, ponti. E noi ci pappiamo gli appalti. I gonzi, gli imbecilli, i burini, i fessacchiotti mi danno i voti. Ecco, ecco, ecco. Con i miei resti voi andate in Parlamento e noi tre ci facciamo una bella papata. Bravo! Allora, vabbè, ci sono buoni motivi per dare una sforbiciata, diciamo così, al numero dei parlamentari. Totò ce ne ha fornito uno, altri potrebbero arrivarne, anzi, ne arrivano dalle cronache. Vorrei tornare solo per un attimo, Giovanni, alla questione che abbiamo cominciato ad affrontare con Calderoli, e cioè i numeri per riuscire a far passare la riforma. Certo, secondo perché lui ha dato la disponibilità adesso. C'è un'apertura. A certe condizioni la Lega... C'è un'apertura, tu sei ottimista? Sul fatto che passi? Io sì. Tu sì. E Pietrangelo? No. Ma dimmi passi. Perché? Perché comunque c'è sempre quel meccanismo parlamentare che è una greppia. Non a caso qualcuno disse un'aula sorda e grigia. Sì, vabbè, ma perché l'esigenza di cambiamento nel paese credo che sia. Però diciamoci la verità: se lui porta a casa questa cosa, cioè sì, se i tacchini, per usare la metafora, vanno da soli al pranzo di Natale, fa un colpo da maestro. Fa un colpo da maestro, però la storia a me sembra che stia andando addosso. Un po' sì. C'ha la storia dalla sua. Scusate, ma la reazione di Grasso è più che significativa. Sì, certo. È uno che di politica non capisce niente. Vero. È eterodiretto, con tutto il rispetto lo dico, da qualcuno che lo suggerisce e lo sollecita. Non si era mai sentita, oggi Antonio Polito lo sottolinea, l'espressione disciplina di partito da 20 anni. Sì, sì. E se Pietro Grasso, che comunque faceva un altro mestiere, adesso se ne esce con questo lapsus, è più che rivelatore di un destino che già si sono costruiti i cosiddetti senatori. Non muoveranno passo, sono sordi appunto perché non sentono, sono grigi perché non hanno nessun colore. Questo è interessante, lo vedremo. Io sono più ottimista. 800 24 00 24, il numero verde, l'SMS 349 238 6666, e intanto Salamini. Ah no, il Salamino di oggi è a metà tra la Francia e l'Italia. Abbiamo iniziato con un bel Paolo Conte, ma oggi c'è un editoriale di Vittorio Feltri che secondo me aprirà una discussione. E cioè, brava Marine, zero per Gianfranco Fini. Si interroga su un fatto. Perché Gianfranco Fini non è riuscito nell'impresa di traghettare se stesso e il suo mondo nel futuro, mentre invece Marine Le Pen, che ha ereditato il partito dal padre, è riuscita invece a creare una realtà consistente in una storia delicata qual è la Molto Francia. Posso rispondere, professor Buttafuoco? Vai. No, veramente io stavo esponendo la tesi del professore Vittorio Feltri, anzi del maestro Vittorio Feltri. Ma io do una mia modesta interpretazione. Perché Marine Le Pen non aveva i colonnelli, cioè è tutto là. No, cioè, vabbè, dai, sì, è un po' poco. No, guarda, è che la classe comunque dirigente del Front National è diversa. Intanto comunque in Francia Hollande veramente ha problemi seri. Sì. Le sanglots longs des violons de l'automne verse mon cœur. Cara Francia, e noi abbiamo Hollande che è al di sotto del normal. Lui venne salutato come normal dopo Sarkozy, è tanto normal che insomma ha dovuto sostituire Ayrault a capo del governo. Entra nel garage di Palazzo Matignon il centrista Manuel Valls, ex ministro dell'interno tra l'altro. Il presidente si becca le critiche della sinistra, perché Valls è considerato, a torto a ragione, il più a destra dei sinistri. Addirittura fu un possibile ministro, se ne discusse d'apertura, cosiddetto, ai tempi del governo Sarkozy. E vabbè, vediamo adesso che cosa prova, farà. Prova a salvarsi. È difficile, diciamoci la verità: Hollande ha una situazione in casa disastrosa. È molto difficile cambiare per lui il segno della presidenza, anche se ha ancora un po' di tempo. E forse realtà deve riportare la moglie al governo? Fa ridere, perché mi fa un po' sorridere, però forse è così. Forse è così, che a volte il destino di un uomo è legato a quello di una donna per sempre, anche se non lo vuole. Quasi sempre. E allora? E allora invece c'è un destino che è indissolubilmente legato non a quello di una donna, ma a quello della grande madre Russia, come sa bene Buttafuoco, e quello dell'Ucraina, che anche qui, piaccia o meno, dipende dalla ex Unione Sovietica, si può dire. E perché? E perché, e guardate, mentre l'Europa fa la rivoluzione, il Fondo Monetario Internazionale dà i prestiti e così via, Putin presenta molto più semplicemente il conto. Gazprom chiude l'era delle tariffe agevolate e il gas passa da 268,50 alla modica cifra di $480 per 1000 metri. E per noi quanto vorrà dire? No, per noi niente, perché noi abbiamo già degli accordi. Perché abbiamo il famoso contratto che forse adesso diventa buono. Ma speriamo. Salamini. Il salamino secondo a seguire è turistico, turistico, perché è venuta fuori un'intervista molto bella di Andrea Scanzi a Oscar Farinetti, il quale ha lanciato un'idea condivisibile, condivisibilissima, lo dico anche da il terrone che parla in me adesso, molto, perché dice: facciamo di tutto il sud Italia una Sharm el Sheikh. Perché è una storia anche vecchia, quella di dire che tutto il sud potrebbe vivere di cultura, di turismo, di spettacolo, insomma offrire al mondo qualcosa che il mondo non ha, la bellezza, l'arte, la storia. E ieri mi sono goduto un incontro organizzato da Italia Decide, che è la fondazione di Luciano Violante, dove veniva spiegato e illustrato quale fosse il flusso del turismo in Italia. Da dove arrivassero i turisti, i tedeschi, per esempio i cinesi, e dove scegliessero le loro mete, ed era prevalente il nord. Prevalente la scelta del nord da parte dei turisti. Questa cosa mi ha fatto riflettere, quando poi ho sentito dalla viva voce della principessa Teodora, anzi meglio, dell'imperatrice Teodora nostra, cioè del presidente, anzi della presidenta della Camera, Laura Boldrini, che... esaltata, anzi forse indispettita, o non lo so, forse irritata, comunque addolcita, vabbè, non lo vabbè, so, a un certo punto se ne esce con una capa, cioè dice: bisogna pensare alla cultura dell'accoglienza. E mi è venuta in mente quelle immagini tristissime di luoghi turistici dove a un certo punto uno pensa di fare soldi, ma non per se stesso, comunque per la sostanza, no, per il benedettissimo sud, dove già uno è nei guai e si fa carico degli altri guai. Bello turismo, villeggiatura, che si conclude con la famosa frase trovata a Lucciardone: cudici, calucarci, re galera, a mio me pare una villeggiatura. Facciamo pure dei pezzi di teatro. No, beh, questo è teatro puro. Allora, sì, California Dreaming è un altro posto molto bello, tra l'altro, dove però, caro Pietrangelo, non vivono solo di turismo, ne fanno, ma fanno anche altro, cioè fanno soldi con le aziende high tech. E caro Giovanni, cari ascoltatori, possiamo girarla come vogliamo, ma l'America è sempre l'America e il cash è sempre cash, cioè la cassa, record assoluto di liquidità posseduta dalle aziende statunitensi, e sto escludendo quelle finanziarie, certo, per intenderci, 1,64 trilioni di dollari alla fine del 2013. La sola Apple possiede 158,8 miliardi di dollari. Ne aveva solo 5,5 nel 2004. Pensate che cosa hanno combinato questi. Apple, sempre per restare nell'high tech, eccetera, ha il 10% del totale del corporate cash americano, esclusa la finanza. Hai capito come si fanno i soldi? Altro che le baggianate che sentiamo noi: si può vivere di solo turismo. No, bisogna fare anche industria avanzata. Esiste, bisogna anche pensare, miei cari. Bisogna ricercare. Intanto noi oggi, nella storia, dopo il telegiornale, racconteremo la storia appunto di due sorelle fuori dal comune, le sorelle Giussani, quelle che hanno inventato un personaggio davvero incredibile, Diabolik. E questa è una ricetta di Diabolik. Ora vi diamo una ricetta non troppo complicata, abbastanza pratica. Si chiama l'uovo alla Diabolik. Prendete un uovo che sia ovale, di misura media, e poi prendete un pentolino a parte di acqua calda e fatela bollire. Scusate, ma perché si chiama uovo alla Diabolik? Perché è rubato. La storia delle sorelle Giussani Diabolik dopo il telegiornale. Intanto, rapidamente, Pietrangelo, il canzoniere. Un fronte freddo autunnale arrivava rabbioso dalla prateria. Qualcosa di terribile stava per accadere, lo si sentiva nell'aria. Il sole era basso nel cielo, una stella minore, un astro morente, raffiche su raffiche di entropia, alberi irrequieti, temperature in diminuzione. 800 24 00 24, il numero verde. Diamo 349 238 6666, per chi vuole rispondere. L'aiuto, dicevi? Piccolo? Diciamo che non è europeo. Non è europeo. Allora, viabilità. Mix 24. Eccomi, la quota rosa. Ah, la quota rosa. Volevo prende dirvi, spazio. Sì, proprio sgomito. Una cosa che sicuramente non sapete, ma noi con il canzoniere non regaliamo solo un libro, stiamo facendo la libroterapia, Pietrangelo, perché in Inghilterra il servizio... Scusami, dopo gli asini di ieri, oggi... È la libroterapia, certo, abbiamo preso questo filone. Il Servizio Sanitario Nazionale Inglese, infatti, ha lanciato un programma per curare le sindromi depressive con i libri. Ragazzi, pare funzioni? Beh, fantastico. Quei libri. Con i libri. Depressi di tutto il mondo, leggete. Io conosco un sacco di depressi che leggono, vabbè, sì, ma anch'io, ma comunque. E certo, perché leggono la filosofia di Galimberti, sta roba qua. Leggono Fabio Volo. 800 24 00 24, 349 SMS 349 238 6666. Abbiamo qualche risposta per il nostro canzoniere? Sì, c'è già la risposta. E allora Daniele. Passiamo. Daniele. Buongiorno. Buongiorno Daniele, da dove ci chiama? Vi chiamo da Milano. Da Milano, fantastico. Che cosa fa a Milano? Io insegno all'università. Che cosa? Insegno disegno urbano alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. Vi ascolto. Qualche volta, e sentire Frenzen citato mi ha emozionato. Giusto! Bravo. Feltrinelli! Ha vinto un Feltrinelli. Bene, sono molto contento, mi fa piacere. Grazie a lei, buon Grazie lavoro. Buona giornata. Grazie, c'è ancora una bolla, Mario? Sì, torniamo in Francia. Questo è un classico della canzone francese, forse il numero uno, mi sa, dei classici. No, tutto solo per dirvi che non c'è solo Ponte Milvio a Roma, la storia dei Lucchetti, è un problemaccio pure a Parigi, perché c'è il ponte dell'Arcivescovado che è carico di Lucchetti in una maniera incredibile, c'è il Pont des Arts che è calchissimo di Lucchetti in una maniera incredibile. Quindi è una pare moda. Che siano circa 700.000, una cosa 700.000, una cosa spaventosa. E due americani che abitano là e che dice: ma è tutto devastato, il Pont des Arts è bellissimo, bellissimo. E adesso praticamente la vista è oscurata, si può dire. Hanno lanciato una campagna che si chiama No Love Locks. E dunque noi forse la sottoscriviamo, non lo so. Vediamo, anche per Roma vale questo. Potrebbe c'è Buttafuoco essere. Che sorride sotto quei baffacci e non so, non anzi quella barbaccia incolta e non so che cosa sta facendo, qualsiasi cosa sia, deve essere terribile. Va bene, ce lo faremo dire, lui intanto è sempre lì che smanetta. Professor Doglio, buongiorno. Buongiorno il lei, nostro buongiorno professore di economia dei media. Ho sentito che anche in Inghilterra si parla, e parliamo di televisione ovviamente, di tagli dei manager perché troppo costosi nella televisione inglese. È così? Sì, è una notizia ancora non proprio precisissima, però diciamo che sembra che il presidente del BBC Trust, Lord Patton, cioè l'organo di governo e garanzia del servizio pubblico, avrebbe deciso che prima di aprire la discussione col governo sull'entità del canone, sul rinnovo della concessione nel 2016, BBC deve dimezzare il numero dei senior manager, cioè i dirigenti di fascia alta. Dimezzare hanno... vuol dire la metà? Vuol dire la metà, attualmente sono 436. I dirigenti della BBC? I dirigenti dirigenti, diciamo, di livello senior, sì, che hanno quindi 25-30 anni di anzianità aziendale e occupano posizioni importanti, diciamo, della struttura. Insomma, dovrebbero diventare 200-210. Dovrebbero, insomma, diventare 250. Il motivo è sempre lo stesso, risparmiare. Certo. Bisogna dire che finora la riduzione dei senior manager ha permesso a BBC di risparmiare 188 milioni di sterline. E per il momento non si sa nulla di più, staremo a vedere. Vabbè, mi sembra una notizia fatta. Interessante, si ricorda che avevamo parlato tempo fa della decisione di chiudere il canale BBC 3. Assolutamente. Adesso BBC Trust, lo stesso, sì, lo stesso organo, ha deciso di sottoporre questa proposta del direttore generale alla procedura di cosiddetto public value test, cioè un test di valutazione di interesse pubblico. Cos'è, un referendum? È una procedura prevista dalle norme, regolano. Sono quattro fasi di approfondimento sui vantaggi e svantaggi per il pubblico, un'analisi d'impatto sul mercato fatta da una procedura, discussione pubblica e infine decisione. Beh, no, è interessante perché l'anno scorso, per dire, il Trust ha respinto la proposta del direttore generale. Perché la gente voleva tenersi la terza rete. Potrebbe anche decidere, potrebbe capitare, che l'interesse del pubblico non sta nella chiusura. Professor Doglio, intanto la Gioicom ha approvato la relazione sul SIC del 2012, cioè come sta adesso il sistema integrato complessivo, questo vuol dire SIC, se cioè l'insieme... Sì, appunto. Cioè allora, l'insieme dei media italiani, diciamo, il SIC è l'insieme dei media. Poi SIC in inglese vuol dire malato. In inglese vuol dire malato. Nei fumetti SIC vuol dire qualcos'altro. Sì, appunto, insomma non è una gran nome, non è un gran nome. Comunque, diciamo che per quello che riguarda la fotografia del 2012, il sistema sta sicuramente peggio che nel 2011. È partito un miliardo in meno, un miliardo secco in meno, il 6,2% rispetto al 2011. È un andamento negativo che è ancora più marcato di quello registrato dall'intera economia nazionale in quell'anno. Senta, ma ci sono elementi che fanno pensare a una ripresa? Perché per adesso diamo sempre brutte notizie. Lo so, però non è che noi siamo pessimisti di natura. No, no, i numeri hanno quel difetto lì. È brutto, diciamo, difetto. Diciamo che in tutto il mondo il sistema delle comunicazioni ha ripreso a crescere. Non si può dire che abbia ripreso a correre. Vabbè, ha ripreso a crescere di poco. Da noi purtroppo e chi è che traina? 12% in due anni e le previsioni se nel 2013 saranno confermate vuol dire un altro miliardo in meno, l'avevamo già anticipato in qualche modo. Chi traina? Come sempre l'area radiotelevisiva, è il comparto che ha inciso maggiormente anche sul totale delle risorse economiche del SIC, ormai 47,3%, è calato un pochino, insomma sono circa 9 miliardi, poi arriva l'editoria quotidiana che insieme a quella periodica e l'agenzia di stampa al 28%, ma qui siamo veramente in caduta libera. Vabbè, insomma, quindi il problema è ancora serio. Ma il modo in cui si calcola il rischio, questa è la ragione per cui c'era il SIC, della posizione dominante, è un modo affidabile oppure no per decidere se c'è una posizione dominante? Per questo si è fatta questa valutazione, per garantire, diciamo, il pluralismo. Allora, non abbiamo tempo per entrare davvero nel dettaglio, anche perché bisognerebbe risalire storicamente a quanto fatto la legge Gasparri, eccetera, eccetera. Comunque la funzione è quella lì, perimetrare il valore del sistema per vigilare sugli equilibri e fare in modo che non scattino le posizioni dominanti. Ora, la verità è che la numerosità dei segmenti che il SIC prende in considerazione fa sì che ci vogliano due anni prima di sapere quanto vale, quindi serve quanto peso niente a ciascuno dei gruppi. Non è che non serve a niente, ma diciamo che se per caso un gruppo va oltre il 20%... Lo sappiamo due anni dopo, va bene, la posizione dominante ha avuto tutto il tempo di farsi dominare. Va bene. Grazie professore, alla settimana prossima. Donne complici, anticonformiste, diaboliche. Ecco, questa è la storia che Marina Milone ci racconta oggi, il racconto cioè di come nasce il personaggio più scomodo che c'è stato, Diaboliche, nelle voci di Angela e Luciana Giussani, che sono le due sorelle che l'hanno inventato, ma anche la voce dei collaboratori, di amici, di queste due donne geniali, sarà un viaggio nel fumetto noir che ha rivoluzionato l'editoria italiana. E per chiudere, l'ultima canzone. Sì, Know You Are, vai. I know who you are.